Salva Danaio. Buona giornata e benvenuti da Valentina Furlanetto a Salva Danaio. Oggi parliamo, come abbiamo anticipato nel collegamento durante il nostro GR, di questa opzione dell'affitto con riscatto. È conosciuta anche come rent to buy perché insomma questa formula arriva dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, anche se ormai è diffusa anche in Europa. In Italia se ne sente parlare sempre più spesso. Di cosa si tratta? In poche parole, pagando un affitto un po' più caro si inizia a comprare mese dopo mese la casa che stiamo affittando, con la possibilità però di rinunciare a un certo punto a questa opzione se la nostra situazione cambiasse. Perché ne parliamo? Beh, sempre più spesso a Salva Danaio sappiamo dalle vostre telefonate, dalle situazioni che, con le quali veniamo in contatto e anche dai dati che ottenere un mutuo è sempre più difficile. Sono più severe le condizioni delle banche, è più difficile pagare le rate, le famiglie spesso si scoraggiano, rinunciano del tutto a chiedere un finanziamento e quindi a comprare una casa. Quindi questa potrebbe essere un'alternativa per chi non vuole continuare a pagare un affitto, però non ha neppure un gruzzoletto da parte per poter acquistare una casa e non riesce ad accedere a un mutuo. Oggi vi spieghiamo come funziona questo affitto con riscatto, quali sono gli aspetti vantaggiosi, i punti su cui invece fare attenzione sia dal punto di vista degli affittuari che dei proprietari di casa, rispondendo alle vostre domande con l'aiuto di alcuni esperti che andiamo subito a salutare. Alberto Girino, responsabile commerciale della Ducale S.P.A. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi Domenico De Stefano, presidente del Consiglio Notarile di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Per scriverci, ascoltatori, e per telefonarci, sapete, i numeri sono 349-238-6666 per mandare un sms, oppure per telefonarci il numero verde 800-24-00-24. Ovviamente vi potete anche informare, potete porre delle questioni o raccontare la vostra esperienza anche alla mail salvadanaio@radio24.it, su Facebook o su Twitter. Avete mai preso in considerazione la possibilità dell'affitto con riscatto? La conoscevate? Quali aspetti non vi convincono? A questo proposito, ne parleremo tra poco più specificatamente nella scheda che è stata redatta dai nostri collaboratori, ma andiamo a vedere, come facciamo sempre a Salva Danaio, brevemente che cosa accade sui mercati finanziari. Poco fa lo dicevamo ancora durante il collegamento in borsa, la borsa di Milano ha girato in negativo, cede in questo istante il FTSE MIB lo 0,57%, il FTSE Italy Share lo 0,51%. In mattinata aveva aperto positiva Piazza Affari, poi era scivolata in negativo nell'attesa dell'asta di bonus spagnoli, aveva perduto anche 1,2 punti. Ora sembra che abbia ridimensionato questo ribasso. Sono rimaste invece positive tutta la mattinata Londra, che ora guadagna lo 0,28%, Francoforte lo 0,54%, Parigi lo 0,44%. La Spagna è positiva, la borsa spagnola, dopo l'asta, come dicevamo, che ha completato il programma 2012. È stata un'asta di bonus 2015, 2018, 2032 con tassi in calo sulle scadenze più brevi e in rialzo sul ventennale. Sono stati assegnati in tutto 4,76 miliardi più del target di 4,5 miliardi. Lo spread tuttavia tra BTP e Bund viaggia sempre sui 365 punti base dopo questi risultati che avrebbero dovuto confortare il mercato. Il differenziale tra decennali spagnoli e tedeschi è sulla soglia dei 450, con il tasso dei bonus in rialzo al 5,83. I temi di borsa: Pirelli pesante a meno 4,98, oggi il CDA di GPI sulla richiesta di scissione al 13% di Camfin, poi Tenaris a meno 3,67 dopo i conti deludenti e le stime deboli per il quarto trimestre, Monte dei Paschi meno 1,93. È la prima dei ribassi di tutte le banche che sono oggi abbastanza deboli. Va bene invece l'automatica più 4%, il trend dei giochi Italia sembra in miglioramento e il titolo ne beneficia notevolmente. ST Microelectronics aveva perso molto ieri, ora sale dello 0,82. Euro sul dollaro a 1,27 e 46 in questo istante. Questa la pagina finanziaria. Torniamo invece al nostro tema, parliamo di affitto con la possibilità di riscattare la casa e quindi di acquistarla. Sentiamo tutti i particolari nella nostra scheda. Comprare una casa è un sogno che molte famiglie italiane vedono allontanarsi sempre di più, con gli effetti della crisi che si fanno sentire in particolare su un fronte, quello dei mutui. Difficile ottenerli, con il bilancio familiare da far quadrare a fine mese a causa di prezzi e tasse e della disoccupazione in aumento. Al punto che in molti casi ci si scoraggia e si rinuncia addirittura a chiedere il finanziamento. L'unica alternativa quindi per tanti è quella di continuare a vivere in affitto. Potrebbe esserci però una soluzione differente, quella del cosiddetto affitto con riscatto. Il rent to buy è già molto diffuso negli Stati Uniti, in Australia e in diversi paesi europei e sta prendendo sempre più piede anche in Italia. L'inquilino o potenziale acquirente stipula con il venditore dell'abitazione due accordi, un normale contratto di locazione e un contratto di opzione, che prevede la possibilità di acquistare la casa in cui ha vissuto a una scadenza e a un prezzo concordati. Il canone di locazione sarà un po' più alto di quanto avrebbe previsto il semplice affitto, ma versare mensilmente questa cifra aggiuntiva potrà permettere di alimentare un fondo già dedicato all'acquisto dell'immobile. La scelta dell'affitto con riscatto può rivelarsi vantaggiosa per chi non dispone di un acconto per l'acquisto immediato dell'immobile e non vuole o non può accendere un mutuo tradizionale. C'è poi un alleggerimento anche dal punto di vista fiscale. Finché si paga il canone di locazione, l'IMU resta a carico del proprietario. Inoltre, permette di prendere un po' di tempo per valutare la possibilità delle finanze familiari e rivedere eventualmente il progetto. Giunto alla scadenza fissata, l'inquilino può scegliere di non esercitare l'opzione di acquisto continuando a pagare il canone fissato nel contratto di locazione o dare disdetta. Certo, la decisione va comunque valutata attentamente. In caso di rinuncia, guardandosi indietro ci si accorgerà di aver pagato un affitto più salato senza essere riusciti ad arrivare al tanto atteso momento del rogito. E questi erano i dati della nostra redazione sul tema di oggi. Ci scrivono già gli ascoltatori su questo e su altro. Ad esempio, un ascoltatore stranamente ci scrive: come mai quando lo spread scende sembra che vi sia morto il gatto, quando sale che sia resuscitato? Casomai il contrario, noi siamo ben contenti che lo spread scenda, ci mancherebbe. Ma andiamo al nostro tema. Già nel 1989, scrive Daniela di Viareggio via SMS, avevo un'agenzia immobiliare, vendevo case di imprese con affitto a 3 anni e poi riscatto. Quindi è qualcosa che forse qualcuno di voi conosce già. Un leasing con maquillage, invece ci scrive un altro ascoltatore. Alberto Girino, responsabile commerciale della Ducale, che diciamo subito è una società di sviluppo immobiliare del gruppo Tecnocasa. È una novità o è qualcosa che c'era già nel tempo e che forse adesso, causa crisi, causa la difficoltà di accedere a dei mutui, si sta rivalutando? Beh, innanzitutto bisogna fare una premessa, che l'applicazione della formula dell'affitto con riscatto, così come è stata configurata dalla Ducale, non è certamente l'unica possibile, sia dal punto di vista giuridico che da un punto di vista economico. Certamente la nostra formula si adatta a quelli che sono i nostri scopi aziendali, ma altre società potrebbero legittimamente scegliere degli schemi giuridici differenti, altrettanto corretti, in funzione dei diversi obiettivi strategici. In particolare, come diceva lei, la Ducale, la società di sviluppo immobiliare che fa parte del gruppo Tecnocasa, costruisce le nuove abitazioni destinate poi alla vendita, quindi è un ragionamento differente, un'impostazione giuridica differente l'avremmo data nel caso si trattasse di una società di gestione immobiliare. Ieri avete concluso tra l'altro il primo rogito. Esatto, questo è stato l'esempio di una persona, di in realtà un papà e un figlio, che avevano ricevuto uno sfratto, avevano un'esigenza abitativa immediata ma non avevano la possibilità di accedere al mutuo per il saldo della casa a causa del fatto che il figlio lavorava a tempo determinato. Abbiamo dato loro la possibilità, con la nostra formula, come avete ben spiegato nella scheda, quindi con la sottoscrizione di un contratto di locazione e il contestuale rilascio dell'opzione di acquisto, di entrare subito nell'immobile soddisfando la loro esigenza abitativa, e intanto in questi 9 mesi abbiamo preparato la pratica di mutuo grazie al fatto che questo contratto del figlio è stato poi volto a tempo indeterminato. E ieri alle 3:30 abbiamo firmato il primo rogito non so se in Italia, insomma, comunque che deriva dalla formula dell'affitto con riscatto. Domenico De Stefano, presidente Consiglio Notarile di Milano. Sono formule interessanti in effetti in queste situazioni in cui, come diceva anche Girino, nel caso che hanno seguito ieri con il Rogito, magari ci sono delle persone che non hanno un contratto a tempo indeterminato. Sono situazioni che lei tratta, che sente trattare molto spesso? Sì, certamente sì. Va detto che questa formula, come diceva giustamente il signor Girino, è da considerare in maniera fluida, nel senso che le esigenze che devono, come sempre, trovare un giusto punto di equilibrio sono diverse di volta in volta. Intanto va detto che il patrimonio immobiliare che più ragionevolmente è destinato a essere occupato utilizzando questa formula dell'affitto con la possibilità di acquisto è quello, è il patrimonio immobiliare nuovo, il cosiddetto invenduto, cioè quello che è stato costruito e che attualmente non riesce a trovare acquirenti, malgrado che ci sia l'interesse ad acquistarlo, perché gli acquirenti non trovano un finanziamento. E queste molto sono situazioni sempre più frequenti nelle nostre città. Sono assolutamente frequentissime. Molto più problematica, e questo va detto agli ascoltatori, è cercare di applicare questa formula quando il venditore è un privato, perché le imprese costruttrici oppure addirittura i network di imprese costruttrici sono in grado di valutare queste questioni dal punto di vista finanziario e quindi di fare un giusto contemperamento tra la remunerazione per il godimento immediato, cioè l'affitto, e l'accantonamento di somme in futuro in funzione di un acquisto che potrà avvenire o potrà non avvenire. Un privato che accettasse di fare un contratto di affitto in ipotesi per 8 anni e poi non avesse la certezza che trascorsi questi 8 anni l'acquirente gli compra davvero la casa, rischia di trovarsi in situazioni di vero imbarazzo che sul patrimonio di un privato che magari ha un solo appartamento hanno un impatto ben superiore. Sì, certo, è chiaro, dobbiamo chiarire molti di questi punti, anche gli svantaggi chiaramente, sia per il locatario sia per il proprietario di acquisti. Ci sono dei vantaggi e anche degli svantaggi. Ad esempio, Alberto Girino, quando si parla di vendita, di fissare un prezzo per la vendita, si fissa questo prezzo sui dati attuali, sul costo attuale, ma in un momento in cui il mercato immobiliare sembra un po' così, i prezzi del mercato immobiliare sembrano in calo, questo potrebbe essere una fregatura alla fine per chi compra? Allora, il discorso è questo, che il contratto sin dall'inizio deve essere assolutamente chiaro per il cliente, quindi bisogna chiarire appunto tutte le varie condizioni. Noi ovviamente già nel contratto d'opzione individuiamo quello che può essere il prezzo base a cui verranno poi da cui poi verrà ridotto l'importo dei canoni versati dal cliente. A seconda dell'esercizio in cui esercita l'opzione, chiaramente si considera la totalità dei canoni versati o parte di essi. È evidente che il rischio è per entrambi le posizioni, nel senso che noi nel giro di 2 o 3 anni ci potremmo attendere anche una ripresa dei valori immobiliari. Il cliente sa peraltro con serenità, insomma, di cosa, il tipo di acquisto che sta in. Quindi il prezzo è bloccato al momento della stipulazione dell'affitto, quindi se il mercato va bene, quindi i prezzi salgono per in qualche maniera, insomma, o se va male può perderci il venditore oppure il locatario, dipende un po', bisognerà farsi un po' di calcoli e sperare anche che vada in una direzione o nell'altra, ovviamente. Ci chiedono anche via SMS, ma perché il proprietario dovrebbe affittare con riscatto? In pratica si mette in casa un personaggio giudicato dalle banche mal pagatore, chiede Paolo da Modena. De Stefano, in effetti è così. In effetti è così ed è la conferma di quello che dicevo prima. Un proprietario che ha 1 o 2 o 3 o 4 appartamenti probabilmente non accederà a queste formule, perché il proprietario deve decidere se vuole vendere o vuole affittare. Queste formule sono molto funzionali invece allo smobilizzo del patrimonio immobiliare delle società costruttrici o dei network di società costruttrici, perché consente a loro di intanto attraverso la consegna avere qualcuno che occupa queste case e che quindi comunque ne fa la manutenzione, avere un, come dire, un corrispettivo per il godimento anticipato e avere un futuro probabile acquirente molto interessato ad acquistare la casa che occupa. De Stefano, lei stava dicendo che questa formula per i privati forse non conviene, ma per i costruttori sì, anche perché la manutenzione dell'immobile sarebbe a carico del locatario, ho capito bene? Certo, la manutenzione ordinaria, quella straordinaria resta a carico del proprietario, ma siccome il problema in questo momento riguarda soprattutto gli edifici nuovi, la manutenzione straordinaria è destinata a essere un problema un po' più in là negli anni. Certo, tra l'altro il canone mensile sarebbe un po' più elevato e quindi c'è un'alta probabilità di concludere poi la vendita, questo piace molto ai costruttori, no? Certo. Certo, esattamente. Scusi, siccome abbiamo molti ascoltatori in attesa, non vorrei farli attendere troppo, anche perché poi do a voi la possibilità di rispondere agli ascoltatori. Chiara da Pisa, buongiorno. Buongiorno, vorrei fare una domanda. Sì, grazie per l'attesa intanto. Niente, allora, premetto che io e mio fidanzato stiamo valutando di acquistare un immobile con questa metodica per avere più tempo di vendere l'immobile dove abitiamo attualmente, nel timore che vendere l'immobile dove stiamo abitando non sia così facile ed estemporaneo. Volevo sapere come tutelarci dall'eventualità che il venditore possa, durante il periodo di affitto, vendere l'immobile ad un altro acquirente, ovvero quanto è vincolato al locatario in questo senso? Ho capito, grazie Chiara. De Stefano, passerei la palla a lei. Ottima domanda, perché è un punto di quelli che vanno messi ben in chiaro. Il rischio principale che corre l'acquirente che accede a questa formula è che il costruttore, io lo chiamo così, chiamiamolo il venditore, ma è meglio pensare che è un costruttore, che il costruttore nel frattempo o venda a qualcun altro, cosa improbabile visto che c'è dentro comunque un inquilino e quindi se ne accorgerebbe quell'altro, oppure più probabilmente che subisca qualche aggressione da parte dei suoi creditori. È per questo che questa formula dell'acquisto con riscatto, come lo chiamate voi, o rent to buy, o meglio noi lo chiamiamo help to buy, cioè un aiuto per l'acquisto, sia valutata in termini fluidi, come dicevo. Nel caso dell'ascoltatrice che ha chiamato, la formula giusta probabilmente è diversa da quella che suggeriva la Ducale, cioè non si tratta di mettere insieme una locazione e un'opzione di vendita, ma si tratta di fare un contratto preliminare che si può trascrivere e quindi garantisce almeno per 3 anni l'inquilino che il costruttore non può vendere ad altri e poi modulare questo contratto preliminare con la possibilità di uscire, di fare dei versamenti a titolo di affitto e di prezzo e poi dare all'acquirente, in questo caso l'ascoltatrice Chiara, la possibilità di uscire senza troppi danni se non riesce a realizzare il suo programma, che è quello di vendere una casa per comprarne un'altra. In queste ipotesi il rent to buy oppure il help to buy, come lo chiamiamo noi, è senz'altro una formula appropriata, naturalmente va calibrata sul singolo acquirente. Girino, ci chiedono via SMS, e in effetti è la domanda che molti si pongono, quanto in più è il canone, in percentuale quanto si paga in più di solito? Allora, per quello che riguarda la nostra esperienza, l'incremento è di circa 15-20% rispetto a un canone medio di mercato. Tenete presente che però se stiamo parlando di immobili nuovi in classe energetica certificata, che già di per loro sconterebbero un prezzo maggiore chiaramente rispetto a quello che potrebbe essere la cosiddetta media di mercato, no? Perché poi chiaramente bisogna vedere il patrimonio edilizio di quel comune. Quindi siamo intorno al 15-20%. 15-20%. Omar da Milano, buongiorno, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno a lei, suo interlocutore. Sì, io per motivi religiosi, non per motivi di problemi con la banca, non posso utilizzare magari il finanziamento con interessi. E sono un artigiano, ho già utilizzato il leasing, che più o meno la parola leasing in inglese è sempre presente, si torna all'affitto. Solo che il leasing, sono nel campo commerciale. 5-6 anni fa ho chiesto chi sia la mia banca che in giro alle agenzie se esiste una formula di questo genere e la risposta è stata sempre negativa. Volevo magari, se voi mi potete aiutare con... Certo. E poi un'altra domanda, qual è la durata massima che, perché sicuramente la rata sarà basata sul prezzo più diviso alla durezza del, e quella se c'è un tetto massimo per Omer, semplifichiamo un attimo, lei vuole sapere esattamente se lei qual è la durata massima dell'affitto? Quella è la durata massima, sì, dell'affitto per concludere, per fare rogito, sì, sulla casa. Mi tolga una curiosità, qual è la religione che le impedisce di chiedere un mutuo? Io sono musulmano, non il mutuo in particolare, finanziamento con interesse in generale, non solo nel campo del mutuo. Ho capito. L'interesse, denaro per denaro e il decito del... se c'è denaro. Quindi se non può chiedere un mutuo, vorrebbe accedere a questa formula. E qual è la domanda esattamente? Non l'ho capito, no. Non l'ho sentito. Dico, lei vuole accedere a questa formula, mi pare, sì, di capire che vuole capire i presupposti attraverso i quali accedere, giusto? Sì, è quelli che non, perché ho chiesto chi sia la mia banca, 5-6 anni fa ho chiesto alla mia banca e ho chiesto in giro all'agenzia se esiste una formula di questo tipo. Ah, e le hanno detto di no, che non esiste. Di no, ho, sì, capito, di mi scusi, no, mi scusi, no. Omar, adesso ho capito bene, mi scusi moltissimo. De Stefano, esistono invece, a Omar hanno detto una notizia infondata, esistono e come, no, queste esistono formule? Da poco tempo, non ho capito da dove chiamasse l'ascoltatore. Da Milano. Allora, per Milano naturalmente non farò il nome, ma so per certo che esistono già importanti società di mediazione o comunque di coordinamento delle vendite che offrono questa formula. Mi pare che l'ascoltatore fosse anche interessato a sapere quanto è il limite massimo, sì, la sì, durata, sì, parlava di un massimo, sì. Qualche formula che ho visto io durante il MECA, che è una manifestazione che si svolge a Milano alla fine ottobre tutti gli anni, c'erano queste proposte. La formula che ho visto io prevedeva un contratto di affitto di 4 più 4 anni, cioè totale di 8 anni, al termine del quale bisognava per forza decidere. Quindi questa a me sembra già una durata molto lunga, insomma. Mm-hmm. Ci scrivono via SMS: per il costruttore l'immobile, se poi non viene riscattato, per lui significa avere un immobile usato che perde in termini di valore sul mercato. Girino, in effetti questa è una problematica. Certo, però il rischio imprenditoriale qualcuno se lo deve prendere se fa l'imprenditore, nel senso che è ovvio che è un patrimonio edilizio che noi abbiamo costruito e che con questa formula mettiamo a reddito, e come giustamente diceva prima De Stefano, questo consente di alleviare anche il bilancio dei costi di gestione che possono essere le spese condominiali e la manutenzione ordinaria, e ottenere comunque un rendimento soddisfacente rispetto all'investimento effettuato, anche perché, come abbiamo individuato prima, il canone è leggermente più alto rispetto a quello di mercato, per cui riusciamo a scontare dei rate che rispetto al mercato immobiliare abitativo in Italia sono più soddisfacenti. D'altra parte, il cliente con la formula che abbiamo applicato noi non è obbligato, questa è una bella cosa, no? Non è obbligato al riscatto poi, quindi sta proprio nella configurazione dello schema giuridico questa possibilità poi di dover portare a termine nei 4 più 4 anni classici il contratto di locazione. Però a noi va bene perché abbiamo individuato un canone che ci soddisfa. Tra gli altri vantaggi per gli affittuari e i futuri compratori, mi pare di capire che ci siano anche vantaggi fiscali, quindi ad esempio l'IMU continuerebbe a pagarla al proprietario, così? Esatto. Quindi questo potrebbe essere un vantaggio che invoglia. Massimo, della provincia di Varese, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Qual è la sua domanda? Sottopongo un caso probabilmente un po' strano e particolare. Io circa 9 mesi fa ho venduto il mio immobile con un compromesso e ho avuto una caparra. L'acquirente adesso, a distanza di 9 mesi, non è in grado probabilmente di vendere il suo appartamento e quindi di onorare l'impegno assunto. E mi ha proposto di entrare in affitto nel mio immobile con questo affitto a riscatto. Io però nello stesso momento ho dovuto chiedere un mutuo per onorare l'impegno che avevo già assunto con un altro acquisto di un'altra casa nuova che io ho comprato. Quindi adesso mi chiedo, io non vorrei fargli perdere le caparre a questo signore, però nello stesso momento io sto pagando degli interessi passivi e dovrei avere in cambio un affitto a scalare con quali... Certo, abbiamo capito Massimo, ha sentito De Stefano, ecco, non riesce a pagare perché... Io consiglierei di pensare, è chiaro che deve mettersi a un tavolo di trattativa con il suo acquirente, però io suggerirei di pensare più a un contratto preliminare di vendita modulato adeguatamente, sia per quanto riguarda il tempo, sia per quanto riguarda l'importo delle caparre. Gli sconsiglierei di fare un contratto di affitto che comunque, se rientra nella normativa ordinaria, dura 4 anni più 4 anni e quindi rischia poi di mettere il nostro ascoltatore venditore in una posizione di grave imbarazzo. Certo, in ogni caso bisogna fare molta attenzione al contratto che si va a firmare, De Stefano, mi pare di capire. Nella sventurata ipotesi che il costruttore venditore poi fallisca, che cosa accade? Se la domanda è sempre per me, la sì. Risposta è che si applica la normativa sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire se questi contratti sono stati fatti quando l'immobile non era ancora finito. Se invece questi contratti vengono fatti quando la casa ormai è finita, non si applica quella disciplina e quindi, a mio giudizio, per tutelare l'acquirente è più opportuno che si faccia un contratto preliminare che viene trascritto e che ha una sua disciplina legale di tutela, che non un contratto di affitto più opzione. Perché il contratto di affitto più opzione non dà una tutela, noi diciamo reale vuol dire nei confronti dei terzi, compresi i creditori del costruttore. Però ancora una volta, la soluzione di questo equilibrio di interessi del costruttore che corre i suoi rischi e dell'acquirente che corre i suoi rischi non può che essere modulato sulle disponibilità finanziarie di ciascuno. Per esempio, è molto facile quando l'acquirente, che magari non è in grado di dimostrare un reddito, però è già proprietario di un altro immobile che non sa se venderà in 6 mesi, un anno o 2 anni o addirittura 3 anni. Lì è più facile. Altro discorso invece è quando siamo di fronte a un acquirente che ha un reddito ma che non può dimostrare che continuerà ad averlo nel tempo. Certo. Cioè ha un lavoro a tempo determinato. Qui vorrei dire una cosa, che in tutto questo discorso anche le banche stanno cominciando a capire che devono fare la loro parte e per esempio secondo me sarebbe ragionevole se le banche mettessero tra i criteri di meritevolezza, oltre che il fatto di avere una busta paga per un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche il fatto che una determinata persona ha pagato per un lungo periodo regolarmente l'affitto. Un affitto, certo. Anche mia nonna comprò una casa a riscatto negli anni 50, si faceva così per le case popolari, INAIL, è vero, in effetti è vero, ce lo scrive un ascoltatore via SMS al 349-238-6666 ed è proprio così, in effetti, per queste case popolari si usava ai tempi questo tipo di vendita. Siamo tornati indietro nel tempo. Filippo da Modena, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno. Io volevo chiedere una cosa. Ammesso che io vado a comprare un appartamento nuovo, lo prendo in affitto per un tot periodo e poi dopo lo riscatto. Sì? Alla fine, a livello pratico diventa una vendita mascherata, perché si sta dicendo fino adesso lo prendo in affitto e poi dopo lo prendo, me lo riscatto e poi me lo tengo riscatta, io. Sì. Sì, ma non si rischia un controllo per evasione d'IVA? Scusi, non si è sentito, può ripetere? Non si rischia un controllo per evasione d'IVA? Ah, ho capito, grazie Filippo, grazie. Alberto Girino. No, allora assolutamente no, perché il canone che per intanto viene pagato sulla base di un contratto che è un regolare contratto di locazione registrato. L'opzione che prevede la riduzione dell'importo dei canoni pagati è altrettanto registrata e finché siamo su valori di riduzione che determinano poi un prezzo di compravendita coerente col valore normale, come accezione fiscale, non c'è assolutamente questo pericolo, insomma. Ecco, io al di là di questo volevo aggiungere anche, per dare seguito alla considerazione che aveva fatto il notaio De Stefano prima, che questo affitto con riscatto è un'ottima formula, ma non può essere la panacea di tutti i mali, cioè questo lo dico sia agli ascoltatori che agli agenti immobiliari, risolvere il problema di un cantiere di, faccio per fare un esempio, di 40 appartamenti di cui ne sono stati venduti 5, finito, con l'affitto con riscatto, non è certamente la soluzione percorribile. Cioè, l'affitto con riscatto in un cantiere di discrete dimensioni può rappresentare sul totale stock immobiliare un 5-10-15% massimo, secondo il nostro punto di vista, della destinazione degli immobili. Il resto la società deve essere in grado di venderlo, perché sennò chiaramente si va a determinare una difficoltà finanziaria che certamente il pagamento dei canoni di locazione non può risolvere. Quindi il rischio vero, appunto, è quello di scegliere, e l'attenzione vera è quella di scegliere degli operatori, degli sviluppatori che siano solidi, e io lo dico sempre, ben equilibrati dal punto di vista patrimoniale, che abbiano una storia che li caratterizza di uno scarso ricorso al debito per fare la loro attività di sviluppo, come noi, ma sicuramente non ci siamo solo noi sul mercato, insomma, ecco, questo è un'attenzione forte che certo, devono avere. Certo, bisogna rivolgersi al mercato, voi, ma anche a tutti gli altri, ovviamente, immobiliari, a tutte le altre società di sviluppo immobiliare. Enza della provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, no, volevo dire che è un'ottima formula per poter acquistare casa per i giovani. Lei lo sa perché l'ha sperimentata? No, perché noi abbiamo comprato, ancora non abbiamo fatto il rogito, però sia i miei figli fra 5 anni, gli hanno fatto un contratto di 5 anni, e anche quel signore che ha detto per l'IVA, noi pagando il bonifico ogni mese paghiamo anche l'IVA. Mm. E lei diceva per i suoi figli, quindi più di un'esperienza di questo tipo? Sì, più di uno, in famiglia 3 appartamenti così, però passando direttamente dal costruttore, perché le agenzie immobiliari non ce lo facevano. Il canone di quanto è superiore? No, è un 20%. Un 20%. Sì, poi logicamente abbiamo deciso di pagarci l'IVA, perché così almeno la fine l'abbiamo già pagata, ecco. Ho capito. Grazie Enza della sua testimonianza. Andrea da Genova, le chiedo di essere rapido perché siamo quasi in chiusura. Ma buonasera. Senta, io volevo chiedere un'informazione. Ora, nel caso di mancato pagamento, l'esecuzione di sfratto ha la stessa procedura, diciamo, di un mancato canone d'affitto? E poi un'altra cosa veloce. Questa vendita di case, tutti vogliono vendere case e nessuno riesce a vendere case. Non mi sembra un po' che sono tipo un po' le Parmalat, che nessuno hanno in mano queste case qua, nessuno riesce a venderle, fanno proposte un po', diciamo, astruse per vendere queste case. Beh, questo paragone con Parmalat è un po' forte, penso. Però quello che lei forse vuole dire, Andrea, è insomma, che non ci siano dietro situazioni un po' così di difficoltà dei costruttori, credo di aver capito così, Domenico De Stefano. Beh, lo scenario che evoca l'ascoltatore è quello della bolla immobiliare spagnola, e quindi non si può dire che una cosa, speriamo proprio di no. Speriamo di no. Sul fatto che queste formule siano astruse, mi sentirei di essere negativo, e prova ne è il fatto che, come giustamente ha segnalato l'ascoltatore, queste erano le formule con cui si sono vendute le case negli anni 50, 60, 70 da parte degli istituti che prima si chiamava Inacasa, poi Gescal, poi istituti provinciali, per IACP, adesso si chiamano Aler. Cioè è una formula antica, quella di dire tu cominci a pagare quello che puoi al mese e quando arriva a un certo punto mi dici o la compri oppure resto in affitto. Il motivo per cui noi adesso valutiamo queste formule come se fossero nuove è il fatto che negli ultimi invece 15-20 anni le banche erano disposte a finanziare tutto o quasi tutto. Il rischio della bolla immobiliare che c'è stata in Spagna probabilmente va anche valutato in collegamento al fatto della facilità di finanziamento o meno. Non a caso i mutui subprime erano quelli che finanziavano l'acquisto delle case da parte dei non abbienti. Ecco, Cesarino della provincia di Monza e Brianza, non riesco a darle la linea perché siamo proprio in chiusura, ma pone una questione: ha scoperto dopo aver fatto questo tipo di contratto che c'era un'ipoteca di non istinta, cosa può fare? Beh, in questo caso bisogna sempre rivolgersi prima a un notaio, così da evitare di trovarsi in casi spiacevoli. È bene anche firmare una fideiussione sull'importo che ogni mese si va ad accontare, in modo tale da essere coperti in caso di fallimento della ditta ditta costruttrice. Siamo in chiusura, appunto, speriamo di aver risolto i vostri dubbi almeno in piccolissima parte. Ovviamente torneremo con Salvadanaio a parlarne prossimamente, perché vedo anche dagli sms che è un tema che interessa molto e c'è un gran ritorno. Io ringrazio gli ospiti: Alberto Girino, responsabile commerciale della Ducale S.P.A., Domenico De Stefano, presidente consiglio notarile di Milano, in regia Matteo Comes, in redazione Massimo Brugnone. Da Valentina Furlanetto è tutto, Salvadanaio torna domani.